Alleluia, vogliamo accomodarci. E se sei parte di questa chiesa, sei parte della chiesa pieno Vangelo, oggi leggerai il capitolo. Non tutti sono parte di questa chiesa ancora, lo stanno realizzando. Il capitolo 17 di Matteo. E oggi vi do una mano perché lo leggo io per voi, va bene? Quindi siete giustificati di non leggerlo da soli a casa, anche se vi farebbe solo bene rileggerlo. Nel capitolo 17 di Matteo noi leggiamo: sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte in disparte e fu trasfigurato davanti a loro. La sua faccia divenne risplendette come il sole, i suoi vestiti divennero candidi come la luce. E apparvero loro Mosè ed Elia che stavano conversando con lui. E Pietro prese a dire a Gesù: Signore, è bene che stiamo qui. Se vuoi farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Mentre egli parlava ancora, una nuvola luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nuvola che diceva: questo è il mio figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. I discepoli, udito ciò, caddero con la faccia a terra e furono presi da gran timore. Ma Gesù, avvicinatosi, li toccò e disse: alzatevi, non temete. Ed essi, alzati gli occhi, non videro nessuno se non Gesù stesso, solo. Poi, mentre scendevano dal monte, Gesù diede loro quest'ordine: non parlate a nessuno di questa visione, finché il figlio dell'uomo sia risuscitato dai morti. E i discepoli gli domandarono: perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia? E gli rispose: certo, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa, ma io vi dico, Elia è già venuto. E non l'hanno riconosciuto, anzi gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto, così anche il figlio dell'uomo deve soffrire da parte loro. Allora i discepoli capirono che egli aveva parlato loro di Giovanni il Battista. Quando tornarono tra la folla, un uomo gli si avvicinò, gettandosi in ginocchio davanti a lui, e gli disse: Signore, abbi pietà di mio figlio, perché è epilettico e soffre molto, spesso infatti cade nel fuoco e spesso nell'acqua. L'ho condotto dai tuoi discepoli, ma non l'hanno potuto guarire. Gesù rispose: o generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da me. Gesù sgridò il demonio e quello uscì dal ragazzo, che da quel momento fu anche guarito. Allora i discepoli, accostatosi a Gesù in disparte, gli chiesero: perché non l'abbiamo potuto cacciare noi? Egli rispose loro: a causa della vostra poca fede, perché in verità io vi dico che se avete fede quanto un granello di senape, potrete dire a questo monte: passa da qua a là, e passerà, e niente vi sarà impossibile. Questa specie di demoni non esce se non per mezzo della preghiera e del digiuno. Mentre essi erano riuniti insieme in Galilea, Gesù disse loro: il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini. Essi lo uccideranno e il terzo giorno risusciterà. Ed essi ne furono molto rattristati. Quando furono giunti a Capernaum, quelli che riscuotevano le didramme si avvicinarono a Pietro e dissero: il vostro maestro non paga le didramme? Egli rispose: sì. Quando fu entrato in casa, Gesù lo prevenne e gli disse: che te ne pare, Simone? Il re della terra da chi prendono tributi o l'imposta? Dai loro figli o dagli estranei? Dagli estranei, rispose Pietro. Gesù gli disse: i figli dunque ne sono esenti, ma per non scandalizzarli, va al mare, getta l'amo e prendi il primo pesce che verrà su. Aprigli la bocca, troverai uno statere, prendilo e dallo loro per me e per te. Amen. Amen. Non vi sentite meglio dopo aver fatto la lettura quotidiana di oggi, eh? Non vi sentite che avete spuntato una casella e siete più sereni? Non vi sentite a posto con la vostra coscienza? Non vi sentite meglio davanti al vostro pastore? Non vi sentite più parte di questa chiesa? Quante buone ragioni per leggere il capitolo che ci è assegnato quotidianamente. Però se leggiamo la parola di Dio non è per spuntare una casella e non è certamente per dire ho fatto anche questo oggi. Se noi leggiamo la parola di Dio è perché noi crediamo che la parola di Dio è vivente ed è attraverso di essa che noi abbiamo rivelazione di Dio. E il Vangelo di Matteo lo stiamo leggendo insieme e stiamo comprendendo bene quanto il proposito dell'evangelista Matteo è proprio quello di rivelarci la natura di Cristo Gesù. Chi è Gesù? Chi è realmente Gesù? E cosa è venuto a fare? Qual è stata la missione di Gesù? Attraverso il Vangelo che stiamo leggendo insieme, stiamo scoprendo che ripetutamente la parola di Dio dimostra che Gesù è effettivamente il Messia, colui per il quale e del quale hanno profetizzato i profeti nel Vecchio Testamento. Noi leggiamo di Gesù che si fanno citazioni del Vecchio Testamento di Isaia, di Geremia, perché l'Evangelista vuole dimostrare. Gesù è effettivamente il promesso, Gesù è effettivamente il figlio di Dio e nello scorso capitolo che abbiamo letto insieme ieri, Pietro ha rivelazione di chi è Gesù e dice tu sei il figlio di Dio, il Cristo. E qui in questo capitolo non sta continuando a fare altro se non a rivelarci chi è Gesù. E qui lo troviamo mettere in disparte Giacomo, Giovanni, Pietro, Giacomo e Giovanni, tre testimoni. Mi porto tre testimoni che possano vedere, che possano avere un assaggio della mia gloria, della gloria che adesso riveste completamente Gesù. Gesù oggi è in splendide vesti, il suo volto è raggiante, ma in quel momento hanno avuto la possibilità di assaporare la gloria di Gesù su quel monte che ci ricorda un'altra lettura che abbiamo fatto qualche mese fa in Esodo. Vi ricordate? Quando Mosè è salito sul monte e Mosè è salito sul monte per ricevere un messaggio da Dio che poi lui è sceso e ha comunicato al popolo. È vero? E ciò che mi colpisce di questa storia è che Dio non affida un messaggio a Gesù da dare al popolo quando scende, perché il messaggio è lui stesso, la parola è lui. Come abbiamo cantato? Lui è la parola dal principio, la parola si è fatta carne e ossa e quindi Dio è stato molto sintetico in quello che ha detto. E ve lo voglio riflettere perché se c'è una cosa che mi ha colpito della lettura di oggi è proprio la parola che Pietro, Giacomo e Giovanni ascoltano dal cielo, da questa nuvola, la parola che viene pronunciata, questa dichiarazione che viene data dal Padre e Dio in persona. E noi oggi abbiamo il privilegio di leggere e ascoltare le parole di Dio che ha detto verbalmente e che hanno potuto ascoltare i discepoli e le parole sono le seguenti: questo è il mio figlio diletto nel quale mi sono compiaciuto. E poi ha aggiunto un comando, Dio: ascoltatelo. Ascoltatelo. Pietro stava in quel momento facendo i suoi discorsi. Era affaccendato e preso da quello che stava accadendo. C'è Mosè, c'è Elia, c'è Gesù. Sono alla pari, siamo alla pari. Stabiliamo qua le nostre tende. Questo è un luogo di dimora, bellissimo. Gesù, vuoi che costruisca delle tende? E mentre Pietro è affaccendato nel dire, nel fare, Dio interviene. E la sua parola, la sua voce deve essere stata tremenda, deve essere stata qualcosa di incredibile, perché noi leggiamo che tutti e tre si sono prostrati, sono caduti faccia a terra, perché Dio ha annunciato questa verità: questo è il mio figlio diletto, basta, non parlate, non fate, basta, schiacciatevi a terra. Ascoltatelo. Oggi Io vorrei che tutti noi tornassimo a casa con questa parola. Solo questa parola. Di tutto questo capitolo, e io ti invito ogni giorno quando leggi un capitolo, non perderti nei tanti racconti, nelle tante parole, non rimanere ad una lettura superficiale. Chiedi a Dio: Dio, c'è una parola che hai per me? Questa è stata la mia richiesta in questi giorni. Signore, hai tu una parola in questo capitolo che è per me? E il Signore mi ha detto: sì, ce l'ho. Ascoltatelo. E così ho sottolineato la parola: ascoltatelo. Ascoltalo. Poi è diventato qualcosa di personale. E poi ho sentito come se Dio mi stesse dicendo: Mirko, ascoltami. Ascoltami. Vedete, così che la parola di Dio diventa qualcosa di vivente, di personale. È lì che noi ci rendiamo conto che Dio è vivente. Se c'è una cosa, e sicuramente è la cosa che ci distingue nella nostra fede, da ogni altra dottrina, da ogni religione, è che il nostro Dio è vivo. E Lui parla, Lui ascolta, Lui agisce. Per questo siamo qui, vero? Se siamo qui è perché abbiamo un Dio che è vivente, alleluia, Lui agisce, Lui parla, Lui ascolta. Non hai un Dio morto, non hai un Dio che è una statua, non hai un Dio che è il Dio che è morto e non è risorto. Lui è risorto, è vivente e ti sta parlando e parla a te individualmente e ora ti sta parlando, ora ti sta parlando. E non perché mi reputo così particolarmente animato da Dio, anche se so che lo sono, ma ogni cosa che ti sto dicendo questa mattina attinge dalla parola di Dio. E quindi noi sappiamo che la parola di Dio è Dio che ci parla e Lui ti sta parlando in questo momento. Ascoltalo, ascoltalo. Io voglio incoraggiarti, perché questo è l'incoraggiamento più grande che posso dare ad ognuno di voi in qualsiasi circostanza tu ti trovi. Qualsiasi sia la tua situazione, Dio ti dice oggi: ascoltami. A volte si serve proprio delle situazioni più difficili, è vero? A Giona l'ha dovuto mettere nella bocca di un pesce per 3 giorni e 3 notti per dire al suo profeta: ascoltami. Ascoltami bene, fai quello che ti dico. A volte noi ci troviamo in situazioni disperate nella nostra vita e non sono altro che un mezzo efficace per portarci in ginocchio, faccia a terra e a sentire, ad ascoltare finalmente Dio. Ed è Dio che ci sta dicendo nelle nostre circostanze: ascoltami, ascoltami. Per fare bene questa cosa, per ascoltare bene nella nostra vita, dobbiamo rimuovere gli impedimenti. È vero. Quando io mi ritrovo a lavorare a casa, lavori di bricolage, spesso sono sul tetto di casa, mi piace mettermi gli auricolari. E mi piace ascoltare musica. Ora, così si vede che ho i miei auricolari addosso. Però se è inverno, mi metto anche un cappellino, no? E quindi sto lì, indaffarato, impegnato, concentrato a fare i miei lavori, con la mia musica che mi stona le orecchie, impegnato, focalizzato su quello che è il lavoro di bricolage che sto facendo, e chiunque viene in quel momento ha l'impressione che io possa ascoltarlo, ma non lo sto ascoltando. Uno, perché sono concentrato a fare il mio lavoro. Due, perché ho degli auricolari che mi stanno amplificando musica a tutto volume nelle orecchie. E i miei genitori vi possono raccontare di quante volte, preso dal mio lavoro, loro si sono ritrovati a parlare e a dirmi e a farmi discorsi con l'idea che io li stessi ascoltando, non realizzando che io avessi gli auricolari. È già capitato, credo, a mia moglie, in qualche occasione che è entrato nella stanza mentre stavo facendo i miei lavori e con l'impressione, l'idea di che io potessi ascoltarla in quel momento, mi ha fatto dei lunghi discorsi e poi io mi sono ritrovato a girarmi e a guardarla e a dire: ah, ma ci sei tu qui! Immaginate come quanta pazienza ha mia moglie, no? Ora guardatemi in questa condizione. Perché mi sono conciato così davanti a voi? Perché forse, probabilmente, questa è la tua condizione oggi. Io spero che tu ti possa portare a casa l'immagine del tuo pastore col cappellino e gli auricolari e un trapano in mano per farti una domanda. Non è che io mi trovo in questa condizione. Non è che io sto troppo affaccendato nei miei lavori e nella soluzione di quello che io sto cercando di risolvere nelle mie circostanze. Non è che io ho un cappellino che copre degli auricolari e non è che io sto ascoltando altre voci che mi stanno distraendo e mi stanno portando a non sentire la voce più importante che nella mia vita io dovrei ascoltare, la voce del Dio vivente. Ci sono voci che parlano nella nostra vita. Tutti noi sentiamo le voci e non perché siamo schizofrenici. Noi ascoltiamo voci perché questa è la nostra naturale inclinazione. Ascoltare la voce delle nostre emozioni, la voce della rabbia oppure la voce della paura. Pietro si è trovato a rinnegare per 3 volte Gesù perché ha ascoltato una voce più grande della profezia che Gesù gli aveva dato, che anticipava che avrebbe fatto esattamente quella stessa cosa. Vi rendete conto? A Pietro Gesù gliel'ha detto: guarda che mi rinnegherai 3 volte. E Pietro a quella voce ha ribattuto dicendo: non succederà mai. Ma la voce della paura ha cominciato a urlare più forte della voce profetica che Gesù gli aveva affidato. E in quel momento, terrorizzato dal fatto che potesse essere anche lui arrestato, torturato e ammazzato, ha cominciato a rinnegare Gesù, ha cominciato a bestemmiare, ha cominciato a proteggersi dalla paura che si era scatenata dentro di lui. Non è che la voce della paura sta avendo la meglio nella tua vita. Rimuovila, rimuovi quegli auricolari, smettila di ascoltare le tue paure e fai una domanda: Signore, che cosa hai tu da dirmi? E fai una preghiera: sia fatta la tua volontà, non la mia. E torniamo a questo, a ribadirlo per la terza domenica di seguito. Qual è la voce che sta parlando? Qual è la voce che sta urlando e rintuonando nella tua mente? È la voce del rigetto. Quanto impedimento c'è nella voce di rigetto? E la voce di rigetto, tu sai che la stai ascoltando quando tutto a un tratto ti senti molto solo e trascurato. Tutto a un tratto cominci a pensare che il fatto che qualcuno abbia avuto qualcosa di buono da dire per qualcun altro ha squalificato te. Questa è la voce del rigetto. Quando qualcuno viene visto, quando qualcuno viene elogiato, quando qualcuno viene promosso, quando a qualcuno viene data attenzione, noi tutto a un tratto, per l'egocentrismo che viviamo, non pensiamo a quanto sia bella questa cosa, ma pensiamo a quanto questo ci squalifica. E quanto questo significa che noi non siamo come lui e quindi non siamo all'altezza e siamo minori e non valiamo e nessuno ci considera. Questa è la voce del rigetto e la voce del rigetto ci immobilizza. E Gesù invece non ha una voce di rigetto nei tuoi confronti, anzi, l'abbiamo letto insieme in Isaia: tu sei stimato, tu sei prezioso ai miei occhi, io ti amo, io amo te. Io ti vedo. Amen. E in chiesa possiamo possiamo sentirci da meno, squalificati, perché qualcuno non ci ha contattato, perché qualcuno non ci ha chiamato, perché qualcuno non ci ha visto, e questo echeggia una voce dentro di noi: non sono amato, non sono voluto, nessuno mi vede, non ho ragione di andare in chiesa. E il diavolo ha avuto la meglio, perché nel tuo non venire in chiesa impedisci a Dio di parlarti attraverso questo, che è un sacro incontro che Dio ha stabilito per ciascuno di noi, e non sono io a dirlo, è la sua parola a dirlo. Dio ti sta parlando ora perché forse hai scelto di non ascoltare la voce del rigetto e sei venuto comunque qui in questo luogo, e questo ti fa onore. Non ascoltare la voce del rigetto, non ascoltare la voce delle tue paure, non ascoltare le voci di altri che hanno da dirti quello che devi fare o non devi fare. Ascolta una voce, la più importante, sempre e comunque, che è la voce di Dio. Amen. C'è un autore cristiano che ha scritto queste parole: L'uomo che non si aspetta di sentire la voce di Dio non l'ascolterà. Ve lo rileggo. L'uomo che non si aspetta di sentire la voce di Dio non l'ascolterà. Se tu in questo momento non ti aspetti di ascoltare la voce di Dio, non l'ascolterai. E non ascoltando la voce di Dio, la tua fede non crescerà. Perché Romani ci dice che la fede viene dall'udire la parola di Dio. E se la tua fede non cresce, la tua azione di vita è compromessa. Ascoltatemi bene, è cruciale quello che ci stiamo dicendo stamattina. Perché le nostre peggiori scelte derivano da voci che ascoltiamo che non sono la voce di Dio. Le nostre peggiori decisioni, le nostre peggiori situazioni, le nostre maggiori sofferenze, nostre personali e per gli altri, derivano dal non aver ascoltato la voce di Dio. Aver ascoltato la nostra logica, aver ascoltato la nostra testardaggine, aver ascoltato il fatto che noi ce la facciamo e ce la facciamo bene da soli. E sono bugie, perché la parola di Dio dice il contrario. E la parola di Dio è la verità. Vuoi una buona vita? Vuoi una vita fruttuosa? Vuoi un buon matrimonio? Vuoi una bella famiglia? Questa è la settimana nella quale abbiamo avuto dei contenuti online bellissimi su YouTube per tutti i genitori. Ma come possiamo stabilire le nostre famiglie in un'unità, in un'armonia che funziona? Mediante la guida della voce di Dio. Gesù dice: io sono il buon pastore, le mie pecore ascoltano la mia voce. Il giovane ricco ha perso l'occasione della sua vita di avere una vita abbondante, veramente molto molto ricca, che avrebbe fatto la sua storia, la storia di molti altri. Perché? Perché ha ascoltato la voce dei suoi beni, ha ascoltato la voce delle sue convinzioni, ha ascoltato la voce della sua logica. Quando Gesù gli ha detto: vendi tutto, dallo ai poveri e poi seguimi. In quel momento il giovane ricco si è trovato davanti al suo più importante bivio, e in quel momento, piuttosto che ascoltare la sua voce, la voce della sua logica, la voce della sua cultura, e noi viviamo nella stessa cultura, se hai i soldi, se hai i beni terreni, più beni terreni hai, più sarai felice. È la stessa logica quella nella quale noi viviamo oggi. Noi siamo più discepoli del giovane ricco di Gesù Cristo. E dobbiamo renderci conto che anche noi ci troviamo davanti a questo bivio. Seguirai i tuoi averi, seguirai i tuoi beni, seguirai le ricchezze di questo mondo, seguirai quello che tutti credono che sia la voce giusta per ritrovarti ad avere una vita miserabile, oppure ascolterai la voce di Dio che ti dice: ehi, io valgo più di ogni altra cosa. vendi tutto, lascia tutto, fai ogni sacrificio, prendi me, perché se prendi me hai tutto veramente. Noi siamo qui oggi perché abbiamo fatto questa scelta. E quello che io incoraggio noi oggi a vivere è rifare la scelta. Perché non ascoltiamo la voce di Dio una volta per poi seguire quella voce nostalgica di 10 anni fa, di 20 anni fa, di 30 anni fa, ma neanche la voce di ieri, perché Gesù vuole incoraggiarci e guidarci giornalmente, quotidianamente. Noi oggi scegliamo di ascoltare la parola di Dio che Lui ha per noi oggi. Oggi è un nuovo giorno. E questo è il giorno nel quale io e tu decidiamo di dire: Signore, parlami. Io voglio ascoltarti. Amen. Vogliamo alzarci in piedi. Vogliamo chiudere i nostri occhi, vogliamo un attimino far scendere nel nostro cuore quanto abbiamo ascoltato. E io voglio ricordarti in questo momento che sei amato, che hai il privilegio più grande della tua vita in Cristo Gesù, il privilegio di essere guidato da colui che è maestro, da colui che è Signore, da colui che è Creatore, da colui che conosce la fine sin dal principio. Ti puoi fidare di Lui, perché qualsiasi cosa Lui ti chiede di fare, Lui vede oltre, Lui sa cosa porterà nella tua vita. E forse sarà difficile, forse sarà doloroso, forse è una scelta che non vuoi fare, che le tue emozioni non ti portano a fare, che la tua logica non ti porta a fare, ma fidati di Gesù, perché Lui è venuto per darci vita e vita in abbondanza. Se questa mattina dici: sì, io voglio ascoltare la voce di Dio, ti chiedo di alzare le tue mani. Vogliamo stare un attimo alla sua presenza. Alleluia. Alleluia, Padre. Padre, grazie. Grazie perché sei vivo. Grazie perché come Chiesa possiamo ritrovarci in questo luogo oggi e riconoscere che non seguiamo uno dei tanti dei muti, sordi e incapaci di agire. Noi siamo qui riuniti che seguiamo il Dio vivente, che parla, che agisce, che è vivo. Gesù, tu sei vivo, noi lo riconosciamo. Prego in questo momento di togliere dalle nostre orecchie ogni auricolare che sta dicendo bugie, che ci sta distraendo, che sta facendo ritornare nelle nostre menti cose che non vengono da te. Io so che, Spirito Santo, tu hai mostrato ai tuoi figli questa mattina delle bugie. Io so che tu hai parlato oltre le mie parole. E a quelle bugie non vogliamo dare il diritto di parlare ulteriormente. A quelle false indicazioni che finora forse ci hanno guidato e guidato molto male, noi non diamo più il diritto di guidarci. Tu sei il buon pastore. Noi siamo pecore che amano seguire l'indicazione di quel buon pastore che conduce il suo gregge per verdeggianti pascoli e verso acque calme. Alleluia. Forza Chiesa, stai alla sua presenza, anche solo in silenzio, anche solo in ulteriore ascolto. E digli in poche parole, anche solo in una frase: Dio, io voglio ascoltarti, dammi nuove indicazioni, oggi, ora. tu ci dici cosa dobbiamo fare, Padre. E noi vogliamo farlo. Io voglio pregare in questo momento per chi ha emozioni forti e sta vivendo stati di ansia, di paura, stati d'animo forti e ingombranti. Padre, tu hai dominio sui nostri cuori. Tu sei venuto per trasformare cuori. I nostri cuori non ti impauriscono, non sono un limite per te. Per questo che nel nome di Gesù io prendo autorità su ogni emozione, stato d'animo che sta avendo la meglio sulla guida che invece tu vuoi dare ai tuoi figli. Nel nome di Gesù dico a quelle cose, dico a queste anime, perché vi abbattete? Basta. Nel nome di Gesù, calmatevi. Confidate nel Signore, confidate nell'Eterno. Questa dichiarazione, l'annuncio, la dichiaro per ogni cuore che è confuso, che per ogni cuore che è affaticato, che è stanco, che si possa calmare ora, Gesù, e che tu possa parlare le tue dolci parole. Dai nuove indicazioni, Padre, a chi non le sente da tempo. Questo sento di pregarti per alcuni di noi. Sono confusi e che sono turbati anche, magari perché vedono altri guidati da te e loro non lo sono. Padre, io prego in questo momento, metti la tua pace. Metti la sicurezza del fatto che sono visti, sono amati. E tu vuoi indicare loro la via. Nessun altro, tu lo vuoi fare personalmente. E io credo, ho fiducia nel fatto che lo farai ora. Parla ora ai cuori, Signore. Posso dirti questo, qualsiasi cosa stai sentendo da parte dello Spirito Santo, non rimandare, non rimandare, non rimandare nulla. Vivilo subito, vivilo ora, fai ora una decisione. Se stai facendo una decisione importante ora, alza la tua mano, voglio pregare per chiunque in questo luogo sta facendo una decisione importante. Alleluia, Padre, io ti ringrazio perché stai parlando in questo luogo. Grazie Spirito Santo perché sei vivo in mezzo a noi e per queste decisioni importanti io prego il tuo sigillo, la tua conferma nei prossimi giorni. Nel nome di Gesù. Parla e convinci e con tanto amore continua a sussurrare le tue parole, le tue indicazioni ai tuoi figli e che in questa decisione che loro sigillano ora, anche pubblicamente, io prego la tua protezione. Il diavolo viene per rubare le tue parole, ma noi vogliamo che siano piantate in un terreno fertile, che attecchiscano e che portano molto frutto. Per questo rimetto nelle tue mani ognuna di queste vite, Gesù. Alleluia. Alleluia. Vogliamo adorare il Signore insieme, facciamolo. Siamo ancora alla sua presenza, adoriamolo, preghiamo a Lui, cerchiamo questa meravigliosa connessione di cui godiamo, questa relazione con il Padre.